capire quali iniziative e intenzioni il governo intende adottare per evitare che queste terribili munizioni possano essere strumento di morte di cui l'Italia diventa responsabile. E allora, un primo passaggio è stata questa interrogazione che abbiamo presentato, 23 senatori, rispetto alla quale noi chiediamo appunto quali sono i numeri, i modelli, le provenienze delle munizioni cluster immagazzinate negli arsenali delle forze armate italiane, qual è il ruolo che questo tipo di munizioni riveste nelle strategie di difesa del nostro paese e quali sono i modelli di munizioni che il nostro paese esporta. Successivamente a questa interrogazione, nella quale speriamo che il governo risponda rapidamente, sarà presentato un progetto di legge per il quale stiamo raccogliendo le firme, che sostanzialmente modifica la legge sulle mine antiuomo, introducendo anche le munizioni cluster tra quelle messe al bando. Noi crediamo che nel momento in cui queste bombe sono prodotte in Italia, vengono esportate, sono in dotazione all'esercito del nostro paese, cioè, ci sono delle cose da chiarire.